Quando partì Noè, portò via gli animali, salvò due vecchi amici, tre giunte comunali. Quando partì Noè, con tutti i familiari, 6 chili di caffè, 2 uffici immobiliari. E allora? E allora accadde che quando Noè partì, conosco un deputato. Ah sì? In chiesa sono stato. Ah sì? E allora accadde che quando Noè partì, le case popolari le ha lasciate tutte lì. Quando partì Noè, c'erano